sentire il tuo calore. Braccia ancora, parlami, guidami, Signore, più vicino a te, più vicino a te. Nell'avversità sarai vicino a me, nell'oscurità la tua luce mi guiderà. Nell'avversità sarai vicino a me, nell'oscurità la tua luce mi sosterrà, mi sosterrà. Stringimi a te, sentire il tuo calore nel mio cuore. Stringimi nelle tue braccia ancora, parlami e guidami, Signore, vicino a te, più vicino a te. Nell'avversità sarai vicino a me, nell'oscurità la tua luce mi guiderà, mi guiderà. Nell'avversità sarai vicino a me, nell'oscurità la tua luce mi sosterrà, mi sosterrà. Nell'avversità sarai vicino a me, nell'oscurità la tua luce mi guiderà. Sarai vicino a me.